3 di altre due di 140 più 430, perciò 757, ne ho dei vari, non è che sono lì, tanto questi li uso solo in 27, avrebbe tanto, poi alla fine non conviene, perché una HF con la linea 920 digital con DSP di ultima generazione, non è che vado in HF a parlare con 140, non lo so, almeno più passare, è troppo rumoroso per fare attività HF, capito? Va bene, lui, allora domani mattina io vengo e me la prendo, poi se Gianni decide la radio è qua, almeno ce l'abbiamo a Sassari, se non decide rimane qua. Io sto bene, quando arrivo ti faccio un colpo di telefono. Gianni mi sembra molto indeciso, viene, non viene, la vuole, non la vuole, già, non lo so. Io Marco Atenti avevo contato, ci vedi che c'è la radio Gianni. Vabbè, i soldi vanno e vengono già, magari se ne affrutti. Io lascia la biglietta, no, io me la prendo quella. Quella non la lascio, la lascio scappare, ma la tengo qua, poi se qualcuno la vuole, mi va a dire, se i soldi devo pagare, gliela do, ma io non è che prendo radio. Io faccio altro nella vita. Anzi, ho fatto altro nella vita, non sono mai stato un dittore, ho sempre fatto così per compro, vendo, scambio. Opla! Mica! Secondo me ho capito una cosa, vuoi scommettere così Gianni, non so cosa vuole fare, sta aspettando che te la prendi tu, perché poi tu a lui gliela dai 200 euro, perché è un amico, e qui e là, vai da un pellone fiume. Una cosa. Io quella radio la pago 350 euro ed esce da qua 350 euro, col suo microfono originale, col suo cappetto originale di alimentazione. Io ti ho già detto, Luca, che non sono un venditore di radio. Quello che la pago, mi fai una ricevuta, me la firmi, ricevo dal signore Claudio Sparviero la somma di lire 350, in modo che io posso dirmi, io questo l'ho pagato da Luca Fiore, poi lo sto dicendo apertamente, non hai problemi, nel modo più assoluto, non vendo radio, non vivo della vendita del radio, grazie a Dio, quindi 350 la pago, 350 li voglio indietro, se no rimani in auge la radio, non me ne affutti manco balle balle. Beh, anche io sto pagando così, cioè non è che la giubacata di manco o di più, almeno a rientrare, io dico, almeno a rientrare quelli, ma cioè, un conto me l'ho sfruttata per un anno, è giusto che il prezzo si abbassi, poi la gente può dire, ma costano 200 euro quelle radio, ma comprano 200 euro, non me la fatta a me, cioè, se vuoi mondezza, compagia mondezza, allora ti dica. 100 è difficile, ma 280 già le ho viste. Guarda, io già le ho sempre vendute a 300 euro, in condizioni non ottimali, presentabili, 300 euro vabbè, ma quando tu vedi una radio del genere, ok, io l'ho vista aperta quella radio, l'ho vista anche aperta, perché mi pare che ti abbia mandato il video anche aperta, elettricamente è nuova, nuova, nuova, si vede dentro tutta fascettata, nuova, nuova, nuova, si vede il collegamento alla lampadina originale col suo gommino che io conosco, quello verde, quindi non hanno mai cambiato lampadina, niente, esteticamente è favolosa, gli slider sono nuovi, nuovi, non sono graffiati, il frontalino è nuovo, nuovo, è perfetta, quindi se li vale 350 euro, quella che io ho dato a Antonello Alessio a 300 euro, ok, gliel'ho data perché è presentabile, ma non era nuova come quella da 350, ecco perché io valuto sempre queste cose, ok, una radio presentabile e una radio nuova, siccome so che tu ne sei peggio di me, vuole cose nuove, belle, e quindi bisogna pagarle già, ma non te la va, se tu vedi il mio 430, ho pagato 450 euro, non ho battuto ciglio, lo sai perché? Perché se tu lo vedi ti metti a piangere, c'ha le viti lucide, la radio è, poi mi chiede a Luca se ti stai facendo balle, chiede a Luca se ti stai facendo balle, è nuova, dove tu la metti la vendi come nuova, nuova, il microfono ancora imbustato, originale mai usato, capito? Queste cose io le apprezzo, e perché Antonella mi ha chiesto, ma nel 60 non si può, Antonella, io mi sento, ce li ho ma non te lo posso dare, guarda, siccome sei un amico, ti voglio bene e so che le tue possibilità non sono grandi da poter espandere tante cose, ti regalo, proprio regalo, che Antonello, gli ho regalato l'MB più 5 fatto da Fabrizio, connettore Kenwood, alimentatore diretta, alimentazione diretta a Kenwood, tu lo attacchi e come un MC60, ed è rimasto contentissimo, perché? Perché gli ho fatto una cortesia a un amico che non è in una situazione dove può buttare via i quattrini, queste cose io le ho sempre fatte già, capito? Però apprezzo quando vado a comprare una cosa bella e nuova, non sto lì a guardare le 50 euro. No, vabbè, dai, non ho... hai fatto bene. No, io non lo so come esca con quel microfono lì, però con te ci va bene col microfono. Antonello, Antonello esce bene con l'MVP5, è una bomba esce. Anzi, lo stacca sempre perché le dita è troppo forte, ti porti appresso un sacco di televisore, coso, eccetera. Ma io ho modulato per mesi e mesi con l'MVP5 in attesa che arrivassero gli MC60, perché ne avevo uno solo sul 430. Sul 140 stavo usando sempre l'MVP5, ma nessuno mi ha detto niente, perché è così, capito? Ma anche Giulio a volte quando usa il K, che usa l'MVP5, è perfetta la modulazione. È una canonata, è un microfono che si adegua a tutto, capito? E così ho fatto con Antonello. La stessa cosa. Poi chi ha avuto la possibilità di comprare da me la radio e poi volere un MC60, c'è chi l'ha pagato 80 euro, c'è chi l'ha pagato 90, c'è chi l'ha pagato 70. Dipende dall'estetica dell'MC60. Se un MC60 che ha già 4-5 anni, 80 euro, se un MC60 che ha un paio d'anni lo vendo a 80 euro, cioè dipende, capito? Ad esempio quello che ho comprato io dalla maschera, me li ha fatti pagare tutti e due 90 euro, cioè sono arrivati in officina da Roberto perché io ancora non avevo la residenza e quindi ho detto, ma non si sa mai che si perdono, li fate arrivare lì, 90 euro l'uno, capito? Quindi immagina, ce n'è chi li vende 100, chi li vende 120, però... Io se devo fare un piacere a un amico, mi ha comprato una radio, ma vaffanculo, ti faccio 20 euro in meno e ti do un MC60, capito? Però, cacco, quando tu compri solo una radio, se esteticamente è bella, no, quella che arriva a Lucca, ti sto dicendo che 350 euro se li vale tutti, tutti se li vale, anche perché è un'ultima serie mi pare, perché io conosco le serie dei 140, quelle che iniziano tutte con 7, se guardate dietro c'è la sigla, 7330, 7336, 7, quelle sono tutte l'ultima serie, quelle che sono col 6 sono la prima serie. Capagata, Lucrezio. Via, ma io sono tornato allo 60. Così è, già, così è. E poi a te, appunto, ti durano le cose, le tratti bene e permetti che vuoi anche una cosa perfetta, diciamo. Caspita, nonostante parlando sempre dell'età di quando è stata costruita, tu devi valutare anche quello. Non è che valuti solamente, devi pensare anche da grande fata ai sagosi, a radio. Non è che la trovi dietro l'angolo la prossima in quelle condizioni. Io dico così, no, sì, stiamo scherzando, ma cioè, state parlando con una persona, ma non perché voglio fare il grande, ma io su questa radio c'ho un'esperienza, sono stato uno dei primi, forse il primo insieme a Marco 131 che modulavamo con 430 a Sassari, io le ho comprate nuove queste radio, ho iniziato a capire il funzionamento, come erano fatte, come... ho iniziato a capire tutto tramite Carlo di Chiaramonti, CH23, che mi ha insegnato tante cose su queste radio, e mi sono fatto una cultura allucinante, e io non ho mai modulato col baracchino, mai. Io dal 1987 che sono arrivato a Sassari sono andato a Maria Notari e mi sono comprato il primo 430 e già ce l'aveva Marco 131, io ho iniziato con quello, sempre avuto Kenwood, il 27 sono sempre, la mia modulazione è questa da 30 anni a questa parte, capito? Forse da 40, non lo so, ma io non ho mai cambiato modulazione, mai, quindi l'esperienza me la sono fatta, sono radi eccezionali, le migliori in assoluto, i due muletti, gli altri tre muletti sono 140, sia 80 e 430. Il 440 è nato male perché mi hanno lasciato a piedi dopo due anni e avevo finito perché la garanzia era un anno, dopo due anni mi ha lasciato a piedi, l'ho portato da Marino Tare e me l'ha fatto passare come garanzia. Il difetto qual era? Sempre quello del VCO, sempre quello del VCO. Quindi è nato con quel problema e se ne è morto con questo problema, mentre i 140, 180 e 430 non hanno mai creato un problema di VCO, mai. Hai sentito Luca? Già sentito, già sentito, sono sempre state belle radio già. Aspetta. Sì, dai, mi assento 10 minuti, magari vuole entrare qualcuno, dai, mi assento, tanto devo andare a mettere a posto. Ehi, allo, già siamo qua, non c'è problema. No, mangiamo, io lo dico perché, cioè, dovete capire. E fate molta attenzione. Ascoltate quando vi danno i consigli. Chiunque compri un 430, assicuratevi che sia ACB, radiamatore non mi interessa perché i radiamatori lo usano molto poco in AM. Assicuratevi che ci sia il filtro AM. Senza filtro AM non comprate il 430 perché c'è uno spostamento di 6 kHz ed è peggio di un baracchino. Sapete cosa è peggio di un baracchino? Cioè, alla ricezione di merda, perché c'è uno spostamento di 6 kHz, esce male, riceve male. Assicuratevi quando comprate un 430 che abbia il filtro AM. Infatti un 430 completo con filtro SSD CWM non lo paghi meno di 450 euro. Senza il filtro SSB, anzi il filtro SSB te lo lasciano, tolgono il filtro CW e il filtro AM, lo paghi a 250 euro. Quindi quando ve lo offrono a 250 euro, fate la domanda, aprimelo e fammi vedere se c'è il filtro M, se no te lo mangi, perché non serve a niente. Ah, ecco, questa è quella cosa che avevo sentito, però non mi ricordavo, l'avevo sentito da te, mi pare, ma non mi ricordavo più. Beh, vabbè, comunque, anche la scheda fonemi c'ha quello lì. No, la scheda fonemi non è, la scheda fonemi ce l'ha solo il 440, non serve a nulla, capito? Con la scheda fonemi, quando tu compri un 440, come l'avevo comprato io nuovo, con tutta la scheda fonemi, tutte le cagate immaginarie, te la parte di pagare una vacca di denaro. Poi vai a vendere e non te lo pagano. Ma la scheda fonemi allora costava 150.000 lire, capito? Quindi non serve a niente. 430 non ne ha le scheda fonemi. 430 ma è una radio meccanica, libera, semplice, ma funzionale, che si mette in culo il 440 e molte altre radio di quasi ultima generazione, perché c'è un ricevitore da paura. La trasmissione poi non ne parliamo, non li farò in demo, capito? Perché passo col 430 tutti spaventi, capito? Col Mickey Gay qua del 140 manetta e con quello del 430 a 2 da paura, c'è un abisso, un altro tipo di radio. Però ricordatevi quello che vi dice Claudio Sparviero, state attenti quando comprate un 430, lasciate perdere gli altri radio che tutti ce l'hanno già optional, cioè ce l'hanno già di serie. Il 430 c'ha il filtro optional della M, il filtro optional del CW, il CW non ve ne frega niente, se SSB ve lo lasciano, ve lo vendono senza filtro M, una grandissima gagada. Il filtro M non si trova, neanche negli Stati Uniti d'America, e costa 120 euro quel filtro, ok, ed è difficilissimo da trovare. Molti se lo tolgono, se lo vendono a parte, perché ci guadagnano di più. La radio non funziona, non ha il funzionamento una M che deve avere, una gagada, peggio di un baracchino. Beh, perché è nato per altre frequenze, poi con questa scheda qua ti porta a perfezionare anche la M, è normale. No, al 140 l'unico difetto che c'è è che è rumoroso, si sente molto QRM, capito? È molto rumoroso, quello lì che c'è. Se no sarebbe un bel apparecchio. Già, guarda, io non so se fate un video o che cosa, io forse perché abito in campagna, è molto... silenziosa, non c'è rumore di macchine, di QRM, di niente, ma è silenziosissimo il mio già, cioè non è che il 140 c'è, anche dipende dove lo mettiamo. Io a Carbonati c'avevo la 15.000, io Antonello che ci passava a 50 metri, è chiaro che si porta le scariche elettrostatiche dentro, ma quando tu abiti in una zona come abito io, che è praticamente molto ma molto silenziosa, poco trafficata, anche la radio, io ho QRM a Santiago 1 col 140, io sto andando con 140 adesso, quando era Carbonati ce l'avevo sempre a 5-6, Roberto col 4-40 c'è QRM a 7-8, dipende, città è così già. Attenzione Claudio. Mara. Puoi passare là. Là dove? Per adesso su, che proviamo quel problema, forse ho trovato. Ah, in HF, aspetta che accendo. Vabbè, aspetta che passa un attimino già, ti lascio un secondo, che faccio il HF un attimo, Gianfranco deve fare una prova in HF, già ritorno dopo. Prendi nota già di quello che ti ho detto, se devi comprarti un 430 compralo completo, fotografia, c'ha il filtro, la prima domanda che devi farle, ce l'ha il filtro M, no, magna Dio, perché intanto non lo trovi, non fare la cazzata che avevo fatto io, che Fabrizio ci ha messo sei mesi prima di trovarmi il filtro M, lo puoi chiedere se ti sto dicendo male, e l'abbiamo pagato 80 euro abbiamo pagato. Sei mesi ci ha messo prima di trovare il filtro, alla fine si è rotto le palle e mi ha regalato il suo, quando è arrivato quello là abbiamo messo nell'altra radio, quindi stiamo attenti a queste cose, io ve lo dico per esperienza vissuta. Un attimino già che mi sposto con Gianfranco a fare questa prova, arrivo subito. Gianfranco 5.25 e poi mi dai la frequenza. Prima sono adesso sono 10. Ah, sei qua? Eia! Dai, mi devo allontanare, dai, 5 minuti con Gianfranco, già fatto, ti devo stendere una, come si dice, quelle affari che vanno al forno, porca miseria, vabbè, non me ne ammetto, dai, devo un secondo a guardare, la mia moglie sta arrivando subito. Ok, io sono qua. Gappa. Luca, riprenda, io intanto non entra nessuno. Attenzione, 10. Hola. Hola. Attenzione, canale 10, cambio. Vabbè già. Vabbè, Claudio si è spostato, si è rimasto solo. Adesso questo che rientrava fra un po', lui che sta per aiutare la moglie. Quando ti arriva, mandami il filmato di quel 140. Già, dimmi. Capito. Va bene, dai, non c'è problema. Vabbè, intanto se poi devi venire qua, o devi andare a prendere perché se lo prende Claudio, cioè, a Vini. A me non mi cambia niente, capito? Basta sapere le cose. Appena mi arrivo immediatamente, tranquillo. No, per vederlo, dai. Sono curioso. Ah, sono Bavidello, Già, ha sentito cosa ha detto? Viene, se lo prende. Cosa... cioè... Ti manda a cercare foto l'altra volta, se non sbaglio, sì. Vabbè. No, già lo so, devo venire io a prendere, se non c'è problema. Chiara, chiara. Adesso sono col 60 collegato al mixer. Ma tu c'hai anche l'MC60. Via. Questo è tutto da adesso, che è attaccato al mixer. L'ho fatto io, te l'ho detto, ve lo fa, l'ho fatto io. Sì, ma pensavo che Fabio e Luca comprano lo scambio, capito? Non lo so, se ne scindono. Guarda, lui c'ha anche un MD1 Biotto della Iaeso, capito? MD1 Biotto, che se l'attacca a quel coso lì, io l'ho sentito, è uguale all'MC60. Ti ripeto, prenditi il microfono normale tu, e la futidini per MC60 adesso, lavora con il microfono normale e fregati, quando poi vuoi buttarla e hai la disponibilità di spendere, perché la disponibilità ce l'hai, quando li vuoi spendere MC60 già si trova, te lo trovo io, non ce n'è problema. Allora, avanti lui. Cosa? Non ho capito cosa hai detto. No, stavo dicendo, stavo guardando questo. troppo, non si senti? Troppo forte. Come se lo sento a pedale l'MC60, minchia, è troppo forte col pedale. Aspetta. Non ci toccato nulla, c'era solo il volume del ricevitore alto e basta. Forse era quello, aspetta. Vedi un po', magari questo è da far sì. Perché qua non ho toccato niente. E allora tiri il volume del ricevitore basso, fa una cosa alla bocca, se no non si comprende nulla. Era quello, era. Sì, sì, anche poco fa me l'avete detto. Tappa, via. Via. Vabbè, già. Poi, boh, ti chiacchi con Claudio, lì te vai da lui a prendertelo se quando deciderai, capito? Via, fine delle prove. Adesso cosa c'hai in mente di fare? Io già, per correttezza, perché io su queste cose sono sempre molto corretto, poi posso avere mille difetti. Io domani me la prendo con la radio, la tengo qua, la uso, te la faccio sentire, se vuoi ti faccio un video, ti faccio tutto quello che ti piace, però io me la prendo con la radio, perché me la voglio prendere, è molto bella, capito? Me la prendo. Quando tu decidi la radio è qua, intanto sappi che io tutte le volte che ti sento ti dico: Gianni, sto usando il 140 che ho acquistato da Luca, ok? Così io lo testo, e se lo testo io con le mie antenne, tu sei pure certo che nessuno ti può dire niente, perché lo faccio andare in 40, lo faccio andare in 20, lo faccio andare in 10, in 15, in 80, lo uso in FM, c'ho la T250 che non sgarra, infatti che dice la T250 sono quelli che dà il 140, perché c'è il suo carretto, quindi io l'attacco al carretto in automatico e così provo anche l'accordatore, se funziona o non funziona, ma sono sicuro che quella radio non ha un difetto, se è centrata o non è centrata, capito? Quella centratura è una cazzata, faccio una telefonata, vado e torno, attaccato all'oscilloscopio è centrato, non c'è problema, su quello non ti preoccupare. Così tu sei sicuro che stai comprando una radio nuova e a posto, come mi penso quando hai comprato da me non ti ho mai fregato. Figa, vabbè, dai, mi prendi, dai, vediamo un po' domani che cosa sentiamo, capa. Tu falla prendere a me la radio, fottidini, così rimane qua. Nel caso tu non la compri, guarda che io non mi offendo, già, la tu comprava per me. Se a te serve, almeno hai una radio a posto. È inutile che andate a comprare radio da fuori, io mi ricordo che Massimiliano quando aveva comprato il 140, mi aveva mandato le foto, cazzo che bella, nuova Massimiliano, 250 euro, compra, arriva questa radio, una delusione, tutti i picchi negativi, non va via Bottenza, non va via Rado, e tu cazzo Massimiliano, minchia, cazzo, come faccio, vai, non ti disperare, vai, la bravo, portamela. Portata a me, sono quelle cazzate, credetemi, quelle cazzate che a me mi hanno insegnato a fare. Io altro non so fare di queste radio. È capitato proprio quelle cazzate. Mi sono messo piano piano, in 2, 3, 4 giorni, un pochino alla volta, mi sono portato prima la potenza come doveva andare, poi gli ho portato i picchi positivi, e non aveva più picchi negativi. Gli ho fatto tutte le regolazioni del Michigan, del microprocessore, dell'LC, tutte quelle coglionate che io ho tutto scritto, l'ha aggiornato la radio, una bomba era. Ma intanto chi te l'ha venduta è stato un disonesto. Lo so, capisci, però se quella radio non avesse avuto quelle cazzatine che io sapevo fare, per mandarla a un centro assistenza, perché non puoi tornare più indietro, una volta che hai bagato, che hai fatto, già io te l'ho dato a posto la radio, mi ha fatto il video funzionante, eccetera, chissà chi sei la ghiscia, capito? Mandarla a un centro assistenza. Lo dico per esperienza vissuta, ci vogliono un sacco di soldi, a me l'820H che l'avevo comprato così ha funzionato 2 mesi e poi si farà dello fumo, è costato 180 euro per mandarlo al centro assistenza, l'ho dovuto mandare purtroppo perché sono radio particolari, tutta schede, tutta SMD e non è facile ripararle, ci vuole il centro assistenza, l'ho pagato alla centro assistenza ICOM 180 euro, quindi stiamo attenti dove compriamo e cosa compriamo, video alla mano, ma soprattutto Non smetterò mai di dirvi, state attenti col 430 perché è una radio eccezionale, non ce n'è per nessuno, per la 27 e per la banda laterale, per tutto. State attenti, chi la compra per la M che abbia il filtro, se no ve la attaccate a culo. Tu quella che c'hai c'è il filtro, sì. Sì, te lo confermo già. Certo, c'è il filtro, quella Luca me l'ha mandata a me prima di comprarla, la mia c'è il filtro, quella che ho venduto a Sassa è lo stesso, c'è il filtro, quella che avevo venduto l'Alghero c'è il filtro, io le ho sempre comprate col filtro, perché so che è utile il filtro M, senza filtro M tu non puoi demandare manco un controllo perché ti sfasa anche il segnale. A me se sa tutto ma con le sigarette di biasia. E appunto, ma state attenti perché molta gente fa il furbo, capito? Ti manda un video col filtro, quindi non vi fidate, non vi fidate, ma l'apri la radio, io ti guarda, ti faccio vedere i soldi sul tavolo, aprimi la radio e mandami la radio, la foto della radio col video, radio aperta, voglio vedere i filtri, mi dirla a Luca, già abbiamo un video noi, di un 430. Va bene, ancora da ridirlo. Già stai attenti, ve ne sono sempre tutti duri in giro, oh, Gianni, sempre ce ne sono. Sono avvistato, eh. Aspetta, forse ho toccato. Bisogna stare ben attenti, davvero, davvero. Questo non è 60, questo è quello da studio. Sì, attenti, questa è una fortuna lui, perché se magari ti mandano le fotografie di tutto quanto, ti sembra bello e poi magari c'è qualche difetto, qualche te ne accorgi. Io per dire, lui se l'ho preso a scatola chiusa, l'ho messo fatto mandare manco video e cosa, ma è perfetto, non c'aveva una bisica né un graffio, niente, è proprio perfetto, è nuovo, non c'ha un graffio. L'unica cosa che c'aveva un filo del microfono che si stava staccando, però il microfono gli ho tolto e gli ho messo questo amplificato, gli ho fatto l'attacco per quell'amplificato, tutto lì. Ma l'apparecchio funziona perfettamente. Ma tu immaginati il mio 430, l'ultimo che ho comprato, che ti ripeto, se io lo metto lo vendo nuovo, non ha manco l'ultimo decimale, sai cosa vuol dire che non ha l'ultimo decimale? Anche non è mai stata aperta questa radio. E sto aspettando i cilindri di Fabrizio per aprirmelo e tagliarmi questa resistenza per apparire l'ultimo decimale. Tu immaginati quanto è nuova, mai stata aperta, vergine, sai cosa dire vergine? Mai stata aperta. C'è ancora la ceralacca nel coso di dietro dove tu sollevi il coperchio. Fatti il conto, c'è l'adesivo di dove è stata comprata la radio. Ma nel 430, ma nel 140 i decimali ci mettono dei tasti, vero? Ma la pedivella ce l'ha questa radio, qua? Sì, c'è la pedivella, sì, e nessuno lo sapeva, attenzione. L'ho fatto vedere io come si fa. Il 680 è il 140, spegni la radio e l'accendi tenendo premuto clear e appaiono i decimali. Il 440, cazzo me ne vale niente che ricordo. Il 440 e il 430 invece devi tagliare una resistenza, devi aprire la radio e tagliare una resistenza. Ciao Lu. Sì, allora dai, mi sto versando, mi sto uscendo qua. Dove sei andato? A piantare il pisello? A piantare la Lugignarma. Quale? Boh, è morta la mucca già. Penso che, non lo so, il padrone è la Marcella, adesso. Ma voi eravate in macchina? Non c'ero io, stavo venendo a prendere a noi a Oschidi, capito? E mancavo 3 km e ho avuto questo incidente. Ragazzino. E come ve ne siete tornati? In autostop? Con la moglie, tutta la moglie. E adesso quello lì ci avrà l'assicurazione, li pagherà la macchina. Chi lo? Tu lo paga, nemmeno male tu paga, ci hai fatto male. Tra la macchina ci ha speso 50.000 euro sopra, la macchina vale 6.000 euro, mi. È un'altra, ma tutti, come si dice, tutte le modifiche, 50.000 euro ci ha speso sopra. Ma a chi? Sì, non lo conosci, là, un tipo che mi chiama a fare delle serate, dai. E avete preso una mucca? Sì, lui l'ha presa, verrà a prendere a noi. C'era anche Bombolino con me. Ah, tu eri a Oschidi? E allora, se giro le foto così la vedi. E siccome c'ero anch'io a Oschidi? Il giorno giorno che c'era la regga, ma noi stavamo facendo altro. Ho visto Bobolì da lontano e mi ha detto, se anche con la persona che conosci, però forse di spalle non ti ho visto. Sì, sì, sì, sì. Sì, infatti c'era la regga, esatto. E vabbè, comunque. Un casino, là, troppi, sono pochi soldi. Cioè, tu lo tenevi con, sono partito alle 8 del mattino e poi mi lamento magari che qua ti hanno, lo stesso, pochi soldi, però alla fine sono le ore, sono quelle che sono. Là ho fatto 5 ore, ok, era Cagliari, 5 ore, 3 per scaricare, 2 per caricare. Cioè, ma poi in mano 50 euro, dalle 8 del mattino sono entrato alle 5 del mattino a casa. Ma non ci andate, cazzo, a fare queste cose. Ma non ci andate, dite a chiamare i gatti negri, lo fanno fare dai negri. Hai capito? Cioè l'aria per 4 ore agli extra hai dato 50 euro, 4 ore. Infatti vanno bene, cioè tu mi devi pagare, io adesso cosa cazzo ci faccio lì? Se ci lavoro 5 ore, ero stato già buttato lì, insomma sono arrivato a casa, non lo straccio. No, infatti io non ci vado. Infatti vuole andare, insomma ti barò, se mi vuoi io mi devi dare 100 euro, quando va bene. Cioè esatto, rimagna e la prendi e la paghi tu. E diciamo cosa cazzo guadagno. Anzi, ti dico una cosa, se mi faccio un giro di conti, scala le 10 euro della benzina sono 40, in più ho speso qualche qualcosina, perché ero sicuro che mi dava almeno 100 euro, io mi sono portato a casa 25 euro. In un giorno intero, mancavano 2 ore per essere un giorno intero, 2 ore. No, ma non ci andate a fare queste cose. Infatti mia figlia quando chiama gli esci dal bar, date 50 euro per 4 ore. Capito? 50 euro. E va bene, cazzo, si parla di chi, 50 euro, ma non c'è vergogna, ladri, cazzo. Vabbè, prendi già. Ma voi piazza in Marte anche lì? Cioè, se andiamo a una piazzare, allora. Allora, è poco sì. È poco. No, io pensavo che voi facevate solo manovalanza, scaricarla dal camion e poi ricaricarla, capito? Ehi, ma alla fine che noi ti spacchi il culo della Roma a piazzare, ti passa i cavi, capito? Cose così. Ma niente di speciale, ma sono pochi, 10 euro ora sono pochi. La spagami la trasferta, siamo fatto 500 km già. Io sono andato a casa, che era uno straccio, uno straccio. lo so. Vabbè, se non altro diventi famoso, ti fai le fotografie dei cantanti. Ehi, vabbè, dai, riprendete già che mi sto perdendo. Facciamo un po' di caldo, così ho appena fatto la doccia, sono tutto sudato, allora, per carità. Poco bene lavassi. Oh, yeah. Sono tutti a comandare a pagare, bari. Ma no, già, il primo giorno mi ha dato 100 euro. Ho fatto la cavalcata, ho fatto servizio, dalle 18 alle 2 di notte. E ci stanno bene, vanno bene, me l'ho fatto da mangiare, e ci sta, ero a casa. Poi la seconda volta mi ha dato 70. Cazzo, da me mi dai 50. E invece di aumentare scalende, boh. Le ore sono tante, cioè due triplo di ore. E poi c'è la trasferta anche, vabbè, comunque. Se lo fai solo per arrotondaglio va bene, dai. E io mi devo fare tutta un giorno fuori casa e lo faccio per arrotondare, ma non penso proprio. Ma sono comunale di fame, cioè, che tanto penso da me da viaggio in casa. Cioè, se uno anda a guadagnare, non paga anche solo culo all'altri. Quello sì. E anche da mangiare che dovevate prendere? Ma da mangiare ce lo offrivano loro, ma panini, cose così. C'era il coso, no? Cioè è gratuito per vederlo, mica pagaffi. E c'era, come si chiama quelli che fanno, organizzano queste cose? Il comitato. Ah, ecco, ho capito. Sì, sì. Avanti Luca! Luca si è perso. Avanti là. Non bevi nessuno. vabbè, comunque ho visto che ti sei fatto le fotografie con Ferrini. Caffu, dove t'avevo visto per ridere, ma non mi interessa cosa. Ma alla fine anche gli ho fatto per il Renga, gli ho fatto anche servizio lì, controllo, che la gente stava entrando gratis, ma cioè mi devi pagare, boh, punto, e devi pagare la giornata, tanto ciò li guadagni tu. Ecco, ora capisco perché la gente non vuole lavorare, per un motivo lì, perché non pagate, la gente vuole pagata, fa bene chi si prende il reddito, non bene o di più. E chissà che ti sei ritirato. A me non mi interessa, lui ci può prendere anche 1000 euro, ma basta che mi fa per pagare la giornata a me. Ma infatti, ma dico, lui piazza perché ci sono gli operai vogliono pagarti. Sì, troppe ore già, se ci sono arrivato a casa con uno straccio. E poi, senza quello, anche i chilometri che fai ti stanca. Se porta più, sotto a levano i travaglieri di burro, ma ti bari, ma la sapete. stanno offendendo la musica. Sì, sacuto una bassa da Deva. Oi, ma non male che il mixer l'abbiamo tirato prima. Meno male, costa 80.000 euro quel mixer. Quella roba lì si rovina, stracco. Sì, 80.000 euro sono caramelle. Vabbè, dai, già, ti lascio che vedo questo busulene che c'ha a gamma, c'è un pedizzato, dai. Alla prossima. Ci sentiamo, ciao anche a Claudio, alla prossima, ciao, riprendi già, ciao. Ciao, ci sentiamo, buona serata. Avanti, chi è rimasto? Claudio, Luca, boh, non c'è nessuno, vabbè, ciao. Hola. Oh, scusatemi, che era il telefono, chi è andato via? Luca se n'è andato, via. Io ero al telefono, mi chiamato mio fratello, mentre stavo parlando Luca, non potevo, intanto anche se sembra modulato, non l'ho passato a Luca, quindi, solo per rispondere al telefono. Vabbè, io stavo per spegnere, mi ha detto adesso vado a Luca al telegiornale, perché se ne sono tutti andati, sono rimasto solo. No, ho toccato questo cane che ho allo porti. No, non porta aereo, non lo sto portando io, non ce la faccio a camminare. Ci sciude, andiamo. Gatto, no mio, adesso tra un po'. Anch'io scacco il tempo e guardo un po' di TV, tanto siamo arrivati, la giornata è fatta, è passata abbastanza bene, anche bella fresca. Già va bene, io l'ho passata un po' male, ma sempre a dolori, notte e giorno, ho fatto anche l'iniezione stasera per stare meglio, ma mi pare che ancora non ha fatto effetto. Allora tu hai palle, di balle purtroppo, vabbè, comunque dai, piano, già ci riprendiamo. E adesso il 21 vado al policlinico per vedere l'equipe chirurgica dei cosi, come si chiama, dell'ortopedia, adesso vediamo cosa mi dico. Guarda, vabbè, lo ti dico, un casino. Se va a fare l'operazione la faccio, non posso stare vicino, io sono ancora giovane, non posso stare a camminare con la stampella e fare due passi per stancarmi. Non so, io la stessa cosa sto aspettando che mi chiami, perché devo fare una visita per la trite. Già sono in cura, però un po' sto migliorando, ma devo fare ancora le visite, vedere un po' cosa mi dice. Ma a me una vera e propria terapia non me l'hanno data ancora, capito? Mi hanno detto faccio queste iniezioni, voltano i muscoli, e poi mi hanno dato l'occhi da prendere, finito uno, finito l'altro, ho preso due scatole di occhi, quattro scatole tra voltare i muscoli, anzi i muscoli mi hanno dato due scatole perché poi ho continuato col voltare solo, se no prima dovevo fare voltare i muscoli insieme. Basta adesso fare iniezioni, sto prendendo l'occhi, adesso oggi ho fatto l'ultima iniezione, è finita, adesso continuerò con l'occhio perché fare iniezioni mi sto facendo il sedere a colabrodo. Gappa. Oia, oggi lo ti dica. Qualcuno dice andiamo. Siamo giovani, insomma, passati 60, ma io già capito. Io sono nato a pagare l'erba da Walter l'altro giorno, cazzo, sono due giorni ancora dolori. Ma dolori, baromi, non riuscivo a muovermi, cazzo. L'artrite è brutta, non è cosa da scherzare. Anche dovrei avere qualche cosa del genere. La coxartrosi più o meno è come l'artrite, ti prende alle aggiunture delle ossa tutto. Anzi io ti dirò che ho fatto quella cura che ti avevo dato anche a te, ho preso questo integratore, l'acido ialuronico, mi ha fatto passare tutti i dolori alle dita delle mani e dei piedi, prima c'avevo dolori anche lì. E non sto prendendo quello, è quello che mi sta aiutando, cioè ce l'ho quello lì, l'ho comprato, c'ho quello lì. Non lo sto prendendo tutti i giorni perché sto prendendo anche altre pastiglie, altri integratori eccetera. Però un giorno sì, un giorno sto prendendo anche quello, un po' sto andando avanti così, ma la schiena mi fa un bel male, cazzo. Come mi metto a fare qualcosa mi crepa, non posso fare più nulla, una rottura di balle che non ti dico. Ma quello devi prendere due volte al giorno, classe, non ti vasi di nulla, due volte al giorno devi prendere. a me me l'ha fatto bene, ti dico la vita, non nel femore, perché il femore lo si più grande del corpo e non ce la fa, ma nei gomiti, dove c'avevo i dolori della spalla, nelle dita, mi ha fatto bene, ne ho preso un tubetto qua, mi sono passati tutti i dolori. Invece ne sto prendendo uno solo, allora ne prendo due. Beh, non prendo il betto, perché c'ho anche carenza di vitamina B, quindi sto prendendo il betto. Allora invece di prendere due betto, ne prendo uno e prendo due di quelli. Ma quelle là sono pastiglie, sono integratori, quelli non ti fanno niente. Non so, allora il betto è un casino. Poi prendo anche il buffer a volte per la cervicale, capito? Qua sono pieno di pastiglie, cazzo minchia, lo so in base. Io che quando ero più giovane cercavo di evitarle, non ne prendevo nulla, anche se avevo mal di denti, mal di testa, non ne prendevo pastiglie, proprio per evitarle. Adesso se Google tutto una volta che si non la giubilea dubbima. Non so. Anch'io, l'unica cosa con mia moglie, cazzo prende 6-7 pastiglie al giorno, che ma finisce, ma io vado a prenderle, mi hai dato il medico, vuoi fare così, io fare, ma piglia nulla, cosa, io guarda. Poi a un certo punto ho ceduto anche io, che se ne prendo 4 al giorno, più integratori, un casino. I reni, bisogna stare attenti ai reni allo stomaco, capito? Bisogna prendere anche gas protettori, eccetera, eccetera, perché sennò ti crepano lo stomaco. In più anche i reni, perché i reni fanno l'affinto e filtrano tutto. Se trovano acido, delle pastiglie e cose, filtrano anche quello, ti possono partire i reni. Infatti no, io prendo anche il gas protettore, poi ho anche il reflusso gastroesofageo, quindi prendo il Malox, il reflusso, qua. Molto male. Bubu. Quando avevo il reflusso, mamma mia, ce l'avevo la mia compagna, poi è riuscita con l'alimentazione a regolarlo e non c'è più niente. E mangiava troppi pasticci prima, quindi adesso si sta regolando con l'alimentazione e adesso va bene. Lei beveva molti succhi di frutta di quelli in bottiglia, di quelli in bottiglietta. Se li ciucciava e quelli lì dolci gli hanno fatto male. No, io i formaggi quando lavoravo fuori, capito? Formaggi, cose grasse, salsiccia. Sabato non vi voglio cenare un pezzo di formaggio, un pezzo di salsiccia, una frutta, eccetera, magari. Anch'io. No, io devo prenderlo per forza, io prendo la pastiglia per il reflusso. Non devo fumare, niente caffè, niente dolci, niente, però io qualche sigaretta non la fumo, e quindi vabbè, pazienza. È così. Va bene Giannetto, dai, ci teniamo aggiornati, poi domani faccio quello che devo fare e te lo faccio sentire. Poi quando sei a comodo, non avere nessun problema, ok? Ti lascio, dai, vado a avermi un TG già, sono pure alla Zinco in radio. Vado a avermi un TG e mi sdraio un po' nel divano. Qua non è che si sta male, c'è una bella portoncina però, mi voglio sdraiare. Ci aggiorniamo, grazie per chiacchiere, salutami a Luca se rientra e chiunque sia in ascolto. Oggi vi abbiamo tenuto compagnia parlando un po' del più del me. Perché per voi che non siete entrati, prendete per me questo. Ciao già, domani. Ciao Cla. E anche io adesso chiudo, dai. Ciao Luca se ci stai ascoltando. Buona carica quando la fai e tutto, dai. Saluto anche tutti gli ascoltatori, perché tanto che so che ci sono le orecchie di buco. Sì, è ben appunto, con le orecchie di buco. E Luca Flippa, ciao.